Racconti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buona giornata cari amici dei Conti della Belva di Radio 24, in questo sabato mattina alle 10, dalle 10 alle 12 siamo qua in diretta alla compagnia dei Conti della Belva, cioè Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio, Francesca Del Rosso, pena fresca fresca tornata dal Brasile, e Oscar Giannino che vi saluta, vi ringrazia, come fresco sempre... fresco dal reparto maternità, se possiamo dire. Lo so, guardate che è dura fare un bambino in giorni in cui, come si vede a Parigi, succede quello che succede. Benvenuto un nuovo contribuente dello Stato italiano che ci doveva pagare la pensione, caro Oscar, grazie a nome dell'Italia. Ah, non c'è dubbio, perché anche lui ha, come tutti noi, 32.184 euro di debito pubblico pro capite, quindi nasce con questa cosa. Io ho un cartellino che gli ho messo fuori, tutti mettono il nome, no? No, quando... non mettono il cartellino, metti il display digitale, tanto deve aggiornarsi ogni giorno. Beh, infatti c'è, basta andare sul Bruno Leoni. Comunque, detto questo, allora, come sempre, riepilogo dei temi della puntata, detto questo però chiamate 800 24 00 24, oltre ai temi di cui parliamo che adesso vi dico. Scrivete su Twitter @Conti della Belva, esatto, e mandateci gli sms al 349 238 6666. Però al di là degli argomenti che sono in numero, Francia, perché come è ovvio il dibattito su quello che è successo deve continuare, e lo spirito nostro, come sempre chiaramente indicato in un po' di note musicali, è questo. Allora, queste note, io apposta ho scelto queste note perché, come è evidente, noi veniamo da una tradizione nazional romantica, e queste parole della Marsigliese sono sanguinosissime, perché ovviamente invitano i francesi a formare battaglioni, perché il sangue impuro, certo, dei nemici abbeveri la terra di Francia. Questo per capire qual è la storia alle nostre spalle, per essere chiari, rispetto alla quale il diritto di satira, la satira senza difendere in nome di un tribunale etico a chi va e a chi non va, perché io in questi giorni, io l'ho difesa così, io non sopporto i politici italiani tutti difensori della satira e che invece querelano sempre, Bravo, non li sopporto. Detto questo, tutti mi hanno detto, la stragrande maggioranza anche di voi in ascolto, replica dicendo ti sbagli assolutamente, perché la satira, se non rispetta i simboli degli altri, non è libertà, è assolutamente licenza, è offesa totale e così via. Allora, una volta che ci mettiamo a stabilire chi deve autorizzare la satira, la storia della libertà è finita, perché hanno ragione gli altri, perché a quel punto Maometto e Allah non va bene, non andrà bene il Papa, non andrà bene Renzi, non andrà bene eccetera eccetera, ed è finita, non c'è nessun motivo di credere che i nostri valori a quel punto valessero la pena di tante vittime. Questo è ciò per cui mi sono incazzato io, telefonate. Io mi sono incazzato per una cosa un po' più sottile, Oscar, cioè la campagna Not in My Name, cioè non nel mio nome, perché in realtà è una pelosa omissione di elementi. Cioè, io non voglio che la gente neghi la delega al terrorista a essere rappresentato, voglio che la gente affermi il principio di legge della tolleranza e della libertà di espressione. Quindi non mi basta sentire Not in My Name, voglio sentire We Stand for Freedom, mi spiego? Quindi le campagnette così poco impegnate a me non fanno piacere, quindi mi spiace, ma anche quelli che si sono espressi contro questi gesti hanno usato le parole sbagliate, perché non si sono schierati a difesa del principio della legge, si sono semplicemente dissociati dai terroristi. A me la dissociazione non basta. Mario, che dici? Ma Io, mi colpisce la frase che è abbastanza banale, se vogliamo dire, no? Adesso siamo tutti francesi, come l'11 settembre eravamo tutti americani. Il problema, in caso specifico, siamo tutti francesi, lo sono anche i terroristi, per passaporto, per nascita. Bisognerebbe capire se per cultura, visto che le linee di faglia nelle culture sono sempre più ampie, bisogna capire che cos'è realmente la società francese oggi. Per cui va bene il messaggio di impatto immediato, emotivo, eccetera, avendo però la consapevolezza che sta diventando sempre più esile e scarnificato, perché siamo tutti francesi, non significa nulla. Sì, è un puro slogan, riempi bocca, riempi pagine. Francesca. Ma io invece trovo allucinante e abbastanza, mi ha abbastanza nervosito tutta questa social appunto polemica e propaganda, quindi le matite di Charlie, ma anche se vogliamo i fan di Pino Daniele, tutti sono, è morto Pino Daniele, sono diventati tutti fan di Pino Daniele, come adesso sono diventati tutti francesi con il terrorismo a Parigi. I social network in questo caso mi fanno molto innervosire e reputo che ci sia molta incoerenza da parte nostra e anche molta ipocrisia. Allora, siamo molto ipocriti. Siamo parecchio, sì, andiamo molto sulla cosa del momento emotiva. Comunque chiamateci 800 24 00 24, oltre che sui temi che adesso vi numero, che trattiamo in puntata, su tutto ciò che vi fa pensare quello che è avvenuto in Francia, la polemica tra più integrazione e meno integrazione, una destra che in Italia chiede il pugno di ferro e non ha uno straccio di politica estera e quindi ci dice che Putin è il grande alleato della destra italiana per lottare contro il fondamentalismo, quel Putin che con un decreto di fine anno ha proibito la patente ai transessuali, certo, la grande lotta contro il fondamentalismo facciamo con Putin, però diteci con piena libertà cosa pensate dei fatti francesi e come riguardano noi e l'Europa. Detto tutto questo, i temi rapidamente che tocchiamo in puntata, partiamo con per la prima volta dopo 30 anni non c'è la proroga degli sfratti e quindi tenteremo di capire insieme a voi, le decine di migliaia di famiglie italiane che contavano su questo, cosa devono aspettarsi, chi è a favore, chi è contro, vedremo quali sono gli interessi in campo e quali sono i numeri della questione. Come sempre trovate tutti i temi della nostra trasmissione su, se andate al portale Radio 24, programmi, conti della Belva, aprite, cliccate, ci sono tutti i documenti per approfondire. Dopo la questione della proroga degli sfratti mancati, approfondiremo un'altra questione. La questione che approfondiamo a quel punto è quella dell'IVA, che è stata abbassata sugli ebook. Viva viva il ministro Franceschini, però scopriremo che gli effetti non sono esattamente quelli che il ministro Franceschini si proponeva. Oppure sì, caro Oscar. Oppure sì, vedremo dal punto di vista. Dopodiché un altro paio di blocchi, sfondo la questione europea, Grecia che arriva tra poche settimane al voto, vero o no che la Germania dice può uscire e non rompere le scatole, avremo con noi Lorenzo Binismaghi, ex membro del board della BCE, sapete che i mercati sono da una parte speranzosi, dall'altra piena di paure sul fatto che arrivi gli acquisti della Banca Centrale Europea. Nel frattempo le banche italiane ballano perché abbiamo scoperto che c'è un rafforzamento dei requisiti di capitale e tutti hanno una paura fottuta. Dopo anni le banche italiane non mi sembra che abbiano capito ancora la lezione, ma anche qui diversi punti di vista a confronto. Poi infine la norma senza padri, di cui Renzi continua a non farci capire chi è che l'ha messa nel decreto fiscale per la franchigia a reati dolosi tributari, e ancora non si è capito perché, fa dimenticare a tutti una mala realtà, che siamo il paese, vedremo al mondo, lo vedremo con i numeri di un rapporto OCSE, con il maggior incredibile numero di accertamenti fiscali per i contribuenti. Non solo il maggiore, siamo da soli, esatto, pari a tutti i paesi OCSE del mondo, ce ne facciamo più in Italia che in tutto il resto del mondo, cioè, ti rendi conto? Mi rendo conto, tragicamente sì, però rischiamo adesso di dimenticarci tutto questo per la manina manona di quella norma senza padre, che è il più grave incidente politico secondo me di Renzi, e vedremo quanto gli pesa per l'elezione al Quirinale. Comunque molti scrivono, per esempio scelgo un messaggio di Paolo che veramente mi dice vergognati, perfetto, perché sono completamente fuori strada. Dice Paolo, la tua libertà di espressione finisce nel momento che offendi una mia libertà. La risposta è no, caro Paolo, se credi o hai chiaro, dal mio punto di vista è legittimo che tu la pensi così, ma la risposta è no. Cioè la satira, la vignetta, il pamphlet satirico, che ripeto non è un saggio scientifico in cui bisogna mettere numeri e considerazioni che stiano in piedi, è una cosa che bisogna accettare, nasce in una maniera che non è commisurata a quello che dici tu. La sua straordinaria forza nel far evolvere la libertà e la cultura democratica e liberale della nostra civiltà occidentale nasce per questo. Ridurla a una cosa come dici tu, se c'è offeso qualcuno allora non bisogna farlo, significa un tribunale etico per cui la satira non si fa più contro niente, perché tutti diranno che sono offesi coloro che sono colpiti. Questa è la mia opinione, caro. E io ci devo aggiungere anche che difendere il diritto di essere blasfemi è uno dei pilastri della civiltà occidentale, anche se è controverso il tema, quello è il tema, lo so, però fammelo dire, che se no non basta dire la satira, no? Bisogna avere il diritto di difendere chi blasfemi. Allora, continueremo e chiamateci su questi temi, non solo sulla satira ma anche su quello che non vi ha convinto della risposta francese fino a questo momento. Ma adesso andiamo alla prima questione. La prima questione di cui ci occupiamo è quello della decisione assunta dal governo, che nel governo che nel decreto mille proroghe del 24 di dicembre non ha confermato, sarebbe stata la 31esima volta di seguito, il blocco degli sfratti. Allora, stiamo parlando degli sfratti, quelli che sono determinati dalla fine locazione. Vi do due numeri sul fenomeno degli sfratti in Italia per capire di che cosa stiamo parlando. I numeri, quelli elaborati in maniera più precisa, sono quelli relativi al 2013. Allora, nel 2013 abbiamo avuto poco più di 73.000 provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili a fine abitativo. Provvedimenti esecutivi significa che c'è qualcuno che chiede all'ufficiale giudiziario di passare in esecuzione, e questa cosa viene confermata. È diverso dal numero di quelli che poi vanno in esecuzione, che sono inferiori alla metà. Però questi 73.000 sono determinati da che cosa? Ecco, di questi 73.000, 63.000 sono per morosità, poco più di 5.000 sono quelli per fine locazione. Il tasso di morosità è nella crisi enormemente salito, cioè negli anni 2008-2013 noi abbiamo avuto una moltiplicazione sia del numero dei provvedimenti esecutivi di sfratto, sia naturalmente della percentuale di chi non ce la fa più a pagare l'affitto. Ora, di questi 73.000 sfratti nel 2013, oltre il 40% stanno nei 12 capoluoghi che hanno più di 250.000 abitanti, quindi ovviamente è un fenomeno concentrato nelle grandi città italiane. Per capire come è cresciuto negli anni della crisi il fenomeno, pensate che tra il 2008 e il 2013 il numero degli sfratti in Italia è salito del 40,3%. 40,3% è un fenomeno di alto impatto sociale, per essere chiari. Il governo ha detto no alla proroga degli sfratti, dicendo metto alcuni strumenti, parecchi soldini, nella disponibilità dei sindaci e dei comuni per affrontare l'emergenza abitativa. Cioè, che cosa ha fatto? Fine della mia sintesi iniziale. C'è un fondo per la cosiddetta morosità incolpevole, questo si deve al ministro Lupi, che se ne fa un grande vanto di questo, per il quale nel 2015 sono stanziati 226 milioni. C'è poi un fondo per il sostegno degli affitti e sono altri 200 milioni, quindi questi 415 milioni, sommando poi il fondo dato ai comuni per le emergenze abitative, si sfiorano i 700 e rotti milioni a disposizione dei comuni per valutare come intervenire a sostegno di coloro che non ce la fanno più a pagare un affitto. Detto questo, è una grande novità nella vita italiana. Esatto, ed è giusto rimarcarla, Oscar, per una volta questo governo ha fatto un provvedimento liberale. Posso dire che è un provvedimento liberale? Far sì che lo Stato finalmente smetta di sequestrare proprietà private e quindi impedisca di fatto il rispetto di contratti privati, sostituendosi di fatto alla volontà libera espressa da due contraenti. Questo è un dato importante, ma è dato importante anche per un'altra cosa, al di là del principio, perché finalmente è un segnale di normalizzazione del mercato degli immobili in questo paese, che ha disperatamente bisogno di ritornare a essere liquido anche per gli affitti, e non lasciare l'affitto come dire opzione seconda quando proprio non riesco a fare nient'altro. Noi abbiamo bisogno di avere molti più affitti in questo paese, abbiamo bisogno di mobilità delle famiglie, mobilità del lavoro, abbiamo bisogno di affitti con gamme di servizio completamente diverso, e si comincia a ricostruire un mercato degli affitti che serve anche a liberare una quantità enorme di capitale privato delle famiglie, stupidamente investito in immobili che non rendono e non vanno da nessuna parte. Quindi per me è un bel segnale, voglio dirlo chiaramente, no? Abbiamo martellato il ministro Lupi la settimana scorsa per improprie decisioni in merito alle autostrade, e io devo dire, come giusto, insomma, siamo qua a fare informazioni e a dire pane pane vino al vino, questo è un provvedimento che ha una sua logica. No, liberale. Quindi scusate, devo capire una cosa però, facciamo un esempio, oggi come oggi ci sono tante persone che hanno una casa e hanno paura di affittarla perché hanno paura che poi la persona che la prenda in affitto non paga. Esatto. Ora, con questo spettacolare fondo per l'urgenza, che cosa succede? Innanzitutto, scusate, alla domanda ancora precedente, bisogna anche capire se veramente la persona non ha i soldi per pagare e quindi è in un'emergenza, oppure no, ci saranno anche persone che non pagano perché poi in qualche modo... Ma cioè, quello, come fa poi a capire? Della collettività è intervenire a sostegno di eventuali situazioni di indigenza, non possiamo come dire, ribaltare sul proprietario. Però Francesca, stai individuando un punto preciso: le grandi le amministrazioni comunali delle città, e questo capita nei grandi comuni, figurati nei piccoli che sono molto meno strutturate, hanno criteri difformi in Italia e non sono molto efficienti esattamente nell'individuare situazioni di indigenza, le condizioni nelle quali si interviene e con quale tipo di fondi. Allora, questo è un problema fondamentale nel nostro paese, perché i fondi adesso sono stanziati, che naturalmente sentiremo le opinioni in campo, alcuni dicono non bastano affatto, ma il problema è i criteri, l'esecutività di questo. E certo, perché se io ho affittato a una persona che invece i soldi li aveva ma non mi paga, comunque rimango... Allora, per capire gli interessi in campo, presentiamo i nostri ospiti che ci seguono per una mezz'oretta, e sono naturalmente due punti di vista, cioè chi è contento ed è favorevole, ed è per questo con noi il segretario generale di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, che ringrazio. Buongiorno Giorgio Spaziani Testa. Buongiorno, grazie a voi. E dall'altra parte chi invece combatte da anni per la tutela di chi è in difficoltà abitativa, il segretario generale del SICET, che è uno dei sindacati più impegnati sulla questione degli inquilini, il sindacato inquilini casa e territorio, Guido Piran. Buongiorno segretario. Buongiorno i suoi ospiti. Vorrei cominciare da lei, cioè una voce critica che ci spiega che cosa non va bene di questo provvedimento, quanti sono gli scoperti secondo voi, come e se non bastano le misure del governo sostitutive al blocco degli sfratti. Allora, cominciamo col dire che c'è un po' di confusione in studio, secondo me, nel senso che sono dette delle cose corrette, oggettivamente corrette, e delle cose non rispondenti alla realtà. Come non sono rispondenti alla realtà i numeri degli stanziamenti, perché non sono soldi per il 2015 quelli che ha detto Lupi, sono soldi che per il fondo di sostegno all'affitto riguardano il 2014 e il 2015. Sì. E i 200 e rotti milioni sulla morosità incolpevole riguardano 10 anni, non 2 anni. Certo, però sono utilizzabili fin dal primo, poi si può rifinanziare, ha detto Lupi. No. E come l'anno no? Scorso erano 40 milioni 37, e stato, a dire la verità, e non è stato speso un euro. Però c'erano, insomma. Sì, ma non, se non si danno gli strumenti per spenderli, si parla. Questo è un meccanismo che il governo, e non solo questo governo, utilizza da parecchio tempo: stanziare soldi e poi non fare i decreti attuativi per spenderli. Corretto. Ha capito? Certo. Quindi non sono spendibili. Non c'è un comune in Italia che l'anno scorso dei 37 milioni ha speso una lira. Uno per i meccanismi di stanziamento e normativi, e il secondo perché regioni e comuni sono assolutamente inadempienti. Ci sono gli assessori che fanno tanta propaganda, ma se facessero il loro mestiere sarebbe meglio. Quindi lei dice, non lo stanno facendo. Intanto le cifre sono teoriche, perché senza decreti attuativi noi non le vedremo. Okay. No, ecco. E seconda cosa, sul piano della spesa, i comuni sono e le regioni sono inadempienti. Pensi che addirittura la regione Campania questi soldi ha dichiarato che devono passare attraverso il patto di stabilità, per cui lo Stato gli dà i soldi, alla Regione Campania non li spende. Ok, detto questo, perché voi dite era meglio la proroga? Allora, anche qui, la proroga. Sono stati dati i numeri proprio a cavolo, non vorrei essere volgare, ma... Mi dica perché, io poi le dico la fonte però, perché sa... No, non da lei. Ah, ecco, in meno male. Questo bailam di propaganda che c'è stato. Sì. Il problema degli sfratti è un problema reale, l'avete detto voi, i numeri che avete dato voi sono esatti, sono gli stessi del Ministero degli Interni. Ma la proroga di questi sfratti, che non si tratta di una proroga di sfratti, si tratta di prorogare alcuni sfratti, sì, esatto, che riguardano alcune famiglie, le cui caratteristiche sono state individuate da una legge. Cioè, qui non è che c'è qualcuno che chiede un favore, sì, c'è una legge. Okay. Allora, stiamo parlando. Ci sono delle famiglie, sì, che sono. Valutiamole in più o meno 30.000, sbaglio? No, assolutamente. Quelli perché senta, però in radio per essere un po' più brevi. Allora, il problema è questo: stiamo parlando sostanzialmente. Vorrei chiarire le cose. Mi faccia rispondere. 3.000 famiglie Che riguardano quel provvedimento lì, e stiamo parlando delle diverse tipologie di sfratto, quelle di. Sono gli sfratti per finita locazione che riguardano, esatto, le famiglie che hanno un reddito lordo complessivo inferiore a 27.000 euro l'anno, sì, e che hanno al loro interno dei malati terminali, dei minori e degli anziani. Quindi, stringendo, lei dice quello era il blocco. Per il resto, come dicono i numeri, gli sfratti si facevano comunque in Italia. Anche come se, no? Lo so, l'ho detto, i numeri quello volevano dire, anche se, come lei sa, sono praticamente la metà rispetto ai titoli esecutivi richiesti dai proprietari. Quindi che un fenomeno di enorme blocco ci sia, lo dicono i numeri, perché i proprietari ne hanno richiesti 130.000 e ce ne sono invece 70.000, corretto? Dell'ufficiale giudiziario. Ecco, allora, corretto. Allora, da questo punto di vista, lei intanto ha fatto una prima raffica del perché no. Ecco, allora adesso rapidamente sentiamo un ascoltatore e poi andiamo, dopo la pausa, invece al perché sì con Giorgio Spaziani Testa. Sandro da Brescia, invece, sulla Francia. Sandro. Sì, ciao Oscar, buongiorno a tutti. Eccoci, sì. Senti, il mio intervento è molto breve e molto semplice. Sì. Dunque, io non sono un grande conoscitore di religioni e quant'altro. Io so solo una cosa, che se tra due persone c'è rispetto, queste cose secondo me non dovrebbero succedere. Cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me è molto semplice. I musulmani ci tengono ai loro simboli, alla loro religione, al loro Dio. Perfetto, rispettiamoli. Perché dover offenderli? Sandro, quindi Charlie Hebdo se l'è cercata. Questo è Sandro, siamo chiari, perché offendere? Non è questione perché offendere, la libertà di critica di ogni religione, altrimenti tu, perdonami, io sono cattolico, allora non si tocca la mia, non si tocca la sua, arriva Lindo, non si tocca la sua, non si fa più satira su niente, riguarda anche la politica, quello del PD dice no, fate satira sugli altri, non su di noi, quello della destra dice su chi volete, ma non su Berlusconi, perfetto, allora da questo punto di vista il fondamentalismo sostiene la stessa cosa, riflettici Sandro. Sostiene la stessa cosa. Chiamate Francia, libertà sì, libertà no, dobbiamo non offendere nessuno. Che dite? 800 24 00 24, 349 238 6666. Stiamo parlando della mancata proroga degli sfratti. Abbiamo sentito Guido Piran del SICE, il sindacato inquilini casa e territorio, che dice no, i soldi del governo tanto non sono spendibili, quindi ci saranno migliaia di famiglie che entrano in problemi seri. Tra l'altro non è vero che c'era al blocco degli sfratti, perché era limitato a poche migliaia di case definite per reddito basso e per condizioni di composizione della famiglia, che limitavano questo blocco a poche migliaia di case. Sentiamo invece il perché è una svolta positiva con il segretario generale di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Allora, perché sì, Giorgio? E perché sì è facile a dirsi, perché sì, perché con questa decisione il governo sceglie di tornare alla legalità. Non è legalità impedire da parte di un governo, di uno Stato, a due parti private di regolare autonomamente il proprio rapporto. Due parti private che in questo caso numericamente non sono rilevanti, è vero quello che è stato detto, i numeri sono ancora più bassi, i numeri il Ministero li quantifica in circa 2.000-2.500, questo blocco è una reiterazione di vecchi blocchi e l'ultimo dato certo parlava di 2.800 famiglie, ma proprio questi numeri bassi ci confermano che non per principio innanzitutto, ma anche per motivi molto pratici, non si deve consentire che non si deve imporre a un'altra parte privata, quella dei proprietari, locatori, di risolvere un problema sociale che in ogni stato normale spetta appunto al governo, alle regioni, ai comuni risolvere. Però non solo per principio, ma anche perché si tratta di numeri così esigui, non c'è ragione per pensare che si debba introdurre, come è stato fatto per tanti, troppi anni, un provvedimento limitativo della libertà privata per risolvere un problema sociale. Qui il governo ha messo in campo delle risorse, non sono d'accordo col segretario Piranna, ci sono già decreti attuativi, quello per esempio sulla morosità incolpevole, sono d'accordo sulle inefficienze delle regioni e dei comuni, qui tre assessori di importanti comuni, Roma, Milano e Napoli, hanno fatto così un comunicato nel quale chiedevano la proroga di questo blocco. Bisogna chiedere a loro cosa hanno fatto in tutto questo periodo, come hanno gestito gli immobili di loro competenza, se hanno fatto sì che in questi immobili rimanessero persone che ne hanno titolo e che pagano, se hanno previsto agevolazioni fiscali per i proprietari che danno in locazione immobili anche a canone più basso rispetto a quello di mercato. Certo. Per molti di questi casi la risposta è no, senza arrivare all'eccesso di Roma, dove il consigliere Maggi ha detto che l'emergenza abitativa è stata creata ad arte per spostare soldi in vario modo. Adesso però segretario, se posso chiedere di generalizzare questo punto, è l'inizio di una normalizzazione del mercato dell'affitto in questo paese che ne ha disperatamente bisogno, un mercato che è asfittico ed è un mercato che non sta garantendo le condizioni di mobilità e quindi di produttività che questo paese ha bisogno. È l'inizio di questa strada, cosa c'è altro da fare per accelerare intanto appunto il rispetto dello Stato di diritto, dei contratti e secondariamente una liquidità proprio fisica della rotazione degli immobili. Ah, aspetti, a conferma di quello che dice Carlo Alberto, c'è un messaggio di un nostro ascoltatore, è capitato anche a me quando ho fatto contratti e locazioni, scrive Ludovico da Milano, dice: mia amarissima esperienza economica, ho perso 18.000 euro, un consiglio voglio dare a chi vuole dare in locazione un appartamento, sempre e chiunque sia l'affittuario, fare un contratto con esplicita clausola fideiussione bancaria a prima richiesta. A me è regolarmente capitato. Perché? Perché in un regime di incertezza totale sull'esecutività degli accordi tra privati è ovvio che sale il livello della garanzia richiesto dal proprietario e ovviamente viviamo in tempi in cui le garanzie bancarie oramai ciascuno di noi le ha abbondantemente utilizzate, esaurite, esatto, nel tempo. Allora, infatti l'incertezza occupa capitale come sempre, no? L'incertezza rende il mercato illiquido, quindi al di là del numero, quindi il denominatore conta, ma la verità è che tu chiedi a qualsiasi proprietario italiano e ti dice: io non lo so cosa succede quando chiedono salto, magari durano 6 mesi, magari durano degli anni, e questa incertezza riduce l'efficienza del mercato. Quindi, caro segretario, volevo un'indicazione da parte sua su questo. No, è perfetto, è tutto sacrosanto, e il segnale positivo del governo ha proprio questo come effetto, oltre che quello che ha sui singoli proprietari interessati, quindi di ristabilire la legalità per loro, quello di dare un segnale di fiducia a tutta la proprietà e anche ai potenziali investitori nell'edilizia. C'è chi si pone il problema se investire i propri soldi sulla finanza o altrove o sugli immobili, è scoraggiato dall'investimento nell'immobiliare se ascolta dalla radio, dai giornali o dalla TV notizie come quelle di provvedimenti vincolistici sulla locazione. Bisogna anche dire però che, e vengo anche alla segnalazione dell'ascoltatore, che dal nostro punto di vista, dal punto di vista della proprietà, non vengono risolti tutti i problemi con questo, ah, con beh, questo non c'è dubbio. No, ma anche con riferimento appunto ai rapporti fra proprietario e inquilino, questo era un provvedimento vincolistico legislativo. C'è la realtà che è fatta di tanti sfratti che non vengono eseguiti, anche addirittura in casi di morosità. Sì. Per comportamenti di fatto degli ufficiali giudiziari. Sì, ma lei sa che su questo ci sono prefetti in grandi capoluoghi italiani, perché ripeto, è lì che si concentra il problema, e è lì che si concentra anche insomma l'impatto sociale del malessere della questione abitativa. Prefetti che intervengono in pieno accordo con i sindaci dicendo: io non posso altro che dire che il blocco deve andare oltre le categorie limitate individuate della legge di cui parlavo prima con Pira, e questo secondo me è un problema che è in larga misura irrisolto. Non so come la pensate voi. Torniamo un secondo su Pira, ha sentito Spaziale in Testa che dice che in realtà i decreti attuativi per utilizzare quei soldi ci sono. Lei che dice? C'è un decreto attuativo di quelli fatti, che per utilizzare quei soldi lì il problema è come è fatto il decreto attuativo, che è in parte inapplicabile. E dall'altra parte, giustamente, come diceva anche il segretario di Confedilizia, e che dicevo anch'io, ci sono le regioni e i comuni che sono inadempienti. Però volevo ragionare rispetto al mercato degli affitti, sì, eccetera. Ma intanto è bene che voi lo rimarchiate. Questo mercato è caratterizzato dalla maggioranza di contratti in nero, ha capito? I primi irregolari sono i proprietari. Lei ha dei numeri, segretario, perché mi dice... Cioè, no, non lo capisco perché non mi mette dei numeri, segretario, mi scusi, cioè, sono illazioni. I numeri che ha dati lei, adesso li do io, prego. Va bene, i numeri, l'evasione nella locazione abitativa è una caratteristica che colpisce più del 50% dei contratti. Fonte? Più del 50%. Fonte? Fonte? Nostra, mia. Ah, beh, grazie. Cioè, grazie. Ha capito? Ho capito perfettamente. Ha capito. La fonte è mia, perché noi abbiamo gli uffici pieni di gente che arriva con contratti in nero, che non possono tutelarsi, che non possono fare, per esempio, le domande di fondo affitti, perché prevedono giustamente un contratto registrato. Va bene. C'era una legge fatta dal governo Berlusconi che diceva che i contratti in nero venivano colpiti e gli inquilini avevano dei diritti su questo. La Corte Costituzionale ha abolito questa norma. E quindi la libertà del mercato è quella lì nella locazione. Io credo che si possa parlare di mercato della locazione quando il mercato è regolare, non solo per gli inquilini che non pagano. Che gli inquilini non paghino è verissimo. L'abbiamo sempre detto noi. No, ma per carità, mancano i redditi. Benissimo, infatti abbiamo visto come questa componente è cresciuta negli anni di crisi, quindi sono il primo che lo riconosce che c'è questa questione. Però attenzione nel dire la regolarità del rapporto, dell'esecutività del contratto tra privati, finché i privati sono evasori, non deve valere e accumulare anomalie invece che risolvere. Esatto. Questa è la mia anche modestissima perché il nero è alimentato opinione. Dall'incertezza, Sofia. Nessuno qua è favorevole ai contratti, però, in ci mancherebbe sentiamo altro. L'esperienza di una ascoltatrice, Corinna da Roma. Corinna, prego. Allora, io anni fa non ho fatto contratti in nero di una locazione di un piccolo appartamento di mamma. Quando ho dovuto venirne di nuovo in possesso, sempre in via bonaria, parlando con l'affittuario, non riuscivo a convincerlo a venire via, a lasciarmi l'appartamento. Lui addirittura ho dovuto aspettare che costui decedesse. Non pago di tutto ciò. Il nipote che abitava di fronte, sul pianerottolo di fronte all'appartamento mio, voleva impossessarsi, aveva delle mire sul mio appartamento, quindi io ho dovuto mettere un avvocato per poter tutelare l'appartamento vuoto del deceduto, che insomma era in affitto, un 1 milione ho speso. Da allora ho detto io mai più che avrò una casa l'affitterò a una persona, perché io ritengo che la legge debba tutelare tutti, le cose vanno fatte in regola assolutamente, perché chi fa la cosa in nero, ci sono due parti che comunque concordano, quindi anche l'inquilino non deve assolutamente accettare la cosa in nero, l'affitto in nero. Però lo Stato deve tutelare la proprietà di chi con tanti sacrifici riesce ad avere una casetta. Io adesso ho fatto la stessa cosa per mia figlia, perché questa cosa era stata fatta dai miei genitori, perché mia figlia è stata disoccupata per 2 anni e mezzo e per tutelarla, dico un domani io muoio, non posso aiutarla, avrà un appartamentino, ma io al momento non lo affitto, anche se le pago anche il mutuo. Perché dico io se l'affitto, che ne so se... Allora Corinna, lei ci conferma, in un paese in cui la certezza dell'applicazione dei contratti non è garantita, i beni che rappresentano un'immobilizzazione, certo, di capitale non sono messi in condizione di produrre i redditi, certo, e quindi generano una perdita a lei, ma sommata questa è la perdita complessiva, certo, di un paese. Affossa il PIL, caro Oscar, l'incertezza del diritto affossa il PIL, perché la gente o non investe in immobili, quindi deprime ulteriormente il mercato, o se li ha già in portafoglio non li affitta e quindi tiene un capitale improduttivo. Abbiamo anche immobili sfitti, appunto. Certo. Detto questo, i sindaci delle grandi città italiane che chiedono al governo adesso, dopo aver dichiarato il principio, di protrarre un po' la proroga, la mia opinione, su questo io do ragione a Peran, la mia opinione è che i sindaci dovrebbero invece muoversi con un po' di pepe nel culo per utilizzare le risorse che hanno, che sono le risorse, ripeto, A, emergenza abitativa, B, gli sfratti dovuti da morosità incolpevole, C, c'è anche un terzo fondo che riguarda poi, un terzo fondo con un pacco di 4 CDP che riguarda l'edilizia a fini sociali da realizzare, nuova e sostitutiva. Allora, i sindaci su questo dovrebbero muoversi prima che protestare. Ma sentiamo ancora rapidamente un altro ascoltatore invece che torna sulla questione Francia. Renzo da Modena, prego Renzo. Renzo, ci sei? Ecco. Sì, eccoci qua. Giannino. Eccoci. Ecco, io sono, per quanto riguarda la satira, un po' d'accordo con gli americani, perché mi risulta che tu puoi fare la satira anche al Presidente della Repubblica, ma non alle religioni. Sì. E non alle razze. Quindi del campo l'uno ne ha infinitamente. E poi do ragione alla tua collega, quello che succede, che è successo con le matitine, un po' di ipocrisia generale. Renzo, posso farti riflettere sul fatto che la posizione americana è lo specchio di un tasso di adesione religiosa, di partecipazione religiosa in tutte le diverse confessioni, questo riguarda i cattolici, gli evangelici, sì, i quacchi, eccetera, eccetera, che è molto più elevato del nostro, perché è diversa la loro storia, hanno una storia molto più recente, fatta da gente che fuggiva dalle guerre di religione e dalle persecuzioni religiose europee, lì trovava la propria libertà e ha fatto di questo rispetto, posso dire, uso un aggettivo corrosivo, satirico, di un rispetto bigotto della religione. Lo scrivono addirittura sui dollari, in God we trust. Una delle cose costitutive della loro civiltà, che io, figurati, vado in giro con una sciarpa che è la bandiera degli Stati Uniti d'America, rispetto e amo, ma che è diversa dalla storia europea. E per me, che sono liberale, libertario, fiero del fatto che ci sia gente che è morta per secoli andando in carcere, andando sul rogo per poter dire che i preti pedofili facciano le vignette, capito? Senza che, se faccio un articolo, io devo dire il tal prete pedofilo, queste sono le prove, ha fatto questo e questo, ne deve rispondere in questi termini, questi sono i testimoni. La vignetta è una reductio ad unum di un diritto inalienabile di questa parte del mondo, di questa parte di civiltà liberale del mondo, quella europea che ha fatto la guerra dei 30 anni, che ha fatto stragi per secoli, poi ha capito che anche la religione, forse posso dire a cominciare dalla religione, il nostro prima diritto di tutto la religione, nostro diritto è di critica di deve essere nella satira, non nei saggi, nella satira libero. Allora continuate a telefonarci 800 24 00 24 su questa questione Francia, libertà di satira oppure no, e anche sui temi di cui parliamo, dopo aver esaurito e ringraziato delle testimonianze che ci hanno dato, quelli che sono favorevoli al blocco, la protrazione del blocco degli sfratti come Confedilizia con Giorgio Spaziani Testa, e chi invece ci ha illustrato le ragioni di obiezioni e contrarietà come il segretario generale del SICET Guido Piran. Ma andiamo a un'altra questioncina. Allora, una cosa positiva di quelle fatte dal governo, perché è l'abbassamento dell'IVA vediamo, sul regime vediamo. E-book. Giustamente Mario Seminario ha fatto notare con un suo bel post, tra l'altro lo so che lo faccio io, leggete il suo blog fastidio.it, perché è una delle cronache parallele dei paradossi della politica economica italiana più sapida e tagliente che ci sia. Non dovete leggere solo quello, ma quello va letto, ve lo posso garantire. Sì, allora, con una cassa di Malox di fianco, che ti fa venire veramente mal di stomaco. Tra l'altro ho scoperto con questo bambino che mi è nato che c'è questo sciroppo Malox che sembra latte al mentolo, ma guardate, io ne vado batto, io ho capito che... Ma li metto direttamente nelle tubature idriche per tenere buoni gli italiani. Ai miei tempi no, non era così buono. La famosa storia degli acquedotti, no? Esatto. Cosa hai disciolto negli acquedotti in questo allora, paese? Mario, questo abbattimento dell'IVA sugli ebook, che effetti sta avendo? Nessuno. Ecco, questo nel è senso, punto. No, però aspetta, spieghiamo sì, meglio. Sì, perché dici così? C'è qualcuno che è contento. Intanto spieghiamo che c'era una differenza, scusa, perché non è che tutti sappiano tutto, No, aspetta. Io ho detto solo nessuno, adesso sviluppavo. Spiegacelo, Francesco. No, chiediamo, vai. Ma io mi ha incuriosito, da acquirente su base regolare degli ebook, il fatto che nei primi giorni del nuovo anno ci fosse questa invarianza di prezzo. E cioè come? È diminuita l'IVA di tanti punti? Io aspettavo di fare un po' di spesa, diciamo, a prezzo ridotto. 18 così. Punti di IVA, non, sì, non sì, di no, IVA. Assolutamente. Così, diciamo, facendo un piccolo così accertamento, indagine, piccolo scavo, ho scoperto che intanto dal 1 gennaio è proprio il regime IVA, diciamo, sui prodotti digitali che si è armonizzato e pertanto bisogna applicare l'IVA del paese dell'acquirente e non l'IVA del paese del venditore. Per fare un esempio banale, ecco, visto che io sono utente massivo, diciamo, di Amazon, non credo che questa sia pubblicità, ma se lo fosse non ci posso fare nulla. Mi sa che siamo in parecchi in questo studio. Vabbè, no, esatto, vabbè, non ci posso fare nulla. I libri, gli ebook acquistati da Amazon avevano sino al 31 dicembre applicata a carico degli acquirenti italiani l'IVA del Lussemburgo, che era il 3%, diciamo. Dal 1 gennaio si applica l'IVA, si applicava l'aliquota IVA italiana, l'ordinaria era 22, una iniziativa del governo, del ministro dei beni culturali Franceschini, l'ha abbassata al 4%, diciamo con grande sprezzo del rischio di iniziative comunitarie di violazione, perché l'IVA, diciamo, è materia non necessariamente gestibile dal singolo paese, ma va comunque armonizzata e concordata. Per farvela breve, perché sennò finisce il mercato unico, diciamolo. Esatto, anche, no? Perché esatto. Sennò ciascuno si fa le tasse che vuole lui, ma non in logica competitiva, bensì in logica quindi protezionistica. Che cosa è successo? Che l'acquirente di un ebook italiano, che dal 1 gennaio doveva vedere un ebook comprato da Amazon Lussemburgo, che avrebbe visto aumentare di 18 punti percentuali l'IVA, cioè, con questa manovra l'IVA è tornata al 4%, per cui il risultato finale è neutro per l'acquirente italiano. Ma questo è solo il primo elemento. È già. Questo è solo il primo elemento, perché gli editori che sono basati in Italia di libri elettronici, con una inferenza mia, diciamo, abbastanza spericolata, avrebbero dovuto abbassare il prezzo. Questo non si è verificato. Magari si è verificato per alcuni editori specializzati, editori di nicchia, eccetera, ma nel grande mercato, diciamo quello mass retail, non risulta essersi ancora verificato. Quindi noi che siamo geneticamente cattivi, perfidi, doppio pensanti e tutto quello che volete aggiungere, riteniamo che ci sia un enorme rischio che questa IVA al 4% italiana sugli ebook rappresenti una sorta di beneficio per gli editori italiani, i quali non abbassano il prezzo ex IVA e in questo caso dalla nuova aliquota avrebbero un vero e proprio sussidio di Stato. Cosa vuol dire questo? Che se le cose saranno confermate nella mia malevola chiave di lettura, l'Italia rischia con altissima probabilità una procedura di infrazione comunitaria per aiuti di Stato settoriali. Penso di essere stato sufficientemente sintetico. Traduco l'iniziativa del ministro Franceschini, di fatto si traduce in un regalo agli editori. In un sussidio. Quindi i lettori che pensavano di riuscire finalmente ad avere, di poter comprare gli ebook a delle cifre un pochino più basse, perché per quanto si dica che costano poco, costano ancora tanto, sono stati fregati. Ma gli editori cosa rispondono? Ci manca questo versante. Allora, no, io personalmente. Però vedi, Francesca, questo ragionamentino con i numeri precisi delle aliquote, della somma del fatto che c'è un'armonizzazione europea che portava l'IVA giù e dell'inizio del governo che porta l'IVA giù, ma che non si trasla sul consumatore, è la dimostrazione del fatto che noi, fottuta compagnia di giro promercatista, per così dire, almeno così veniamo dipinti, dei conti della belva, quando si tratta di pescare i privati e gli attori del mercato che non fanno il loro mestiere, siamo altrettanto critici, esatto, e inflessibili, perché il mercato per funzionare ha bisogno di buone regole, e le regole le fa il pubblico e poi le attuano i regolatori, però bisogna anche di attori di mercato, cioè le imprese da una parte, i consumatori dall'altro, che facciano bene il loro mestiere. Se incamerano rendite, il mercato non funziona, e noi che credevamo nel mercato, quando vediamo che sono i privati che non fanno il loro mestiere perché si mettono in tasca dei margini che dovrebbero trasferire al consumatore, quindi non fanno bene il loro mestiere di imprenditori, vedete? Allora noi, come vedete, siamo altrettanto duri e inflessibili. Franceschini ci ha provato, però c'è qualcosa nel comportamento degli editori che non ci piace. Posso dire però, visto che stiamo bastonando sempre il governo, ci ha provato, ma ci ha provato un medievalista il quale giustamente mi riduce l'IVA al testo scritto gutenberghiano. Bravo, bravo, bravo. Però lo stesso testo venduto sotto un'app, magari un testo illustrato, cinematico, multimediale, me lo lascia sotto forma di software tassato al 22%. Quindi mi detassa la tradizione e mi tassa l'innovazione. Quindi io sono costretto a tenere i vecchi libri invece che dare i nuovi libri ai miei figli, che è una cosa molto stupida. Stupida, no? Molto da medievalista, che, come dire, noi invece, visto che studiare software lo faranno gli americani, studieremo storia classica. Giustissimo studiare storia classica, ma non penalizzando l'innovazione. Comunque, se c'è un editore che ci sta ascoltando, ci chiami, così sentiamo un po' che cosa. Ma io vorrei però sentire magari la voce dei bambini, se è possibile. Francesca, non c'hai qualcosa da raccontarci con i tuoi fornitori di informatore? Dai, sì. Ormai ci sono bambini e mamme che quando mi vedono con il microfono si avvicinano e dicono: oggi che cosa chiederai? Ascolta. Vedo che stai leggendo un libro, ti piace leggere? Sì, mi piace leggere anche i libri sul tablet e sui computer. E secondo te c'è una differenza fra quello di carta e quello che leggi elettronico? Non tanto. E la tua mamma cosa legge, libri di carta o libri elettronici? Gli ebook. Dovrebbero costare ancora meno gli ebook. Costano uno sproposito, per cui, protetta dall'anonimato, ammetto che io in effetti me li scarico e non spendo niente. Se un ebook anziché 14 euro, 12 euro, 8 euro costasse 3 o 4 euro, invece li comprerei tutti, perché ci si campa su questo mestiere, sia gli editori che gli scrittori. Leggi libri cartacei o in ebook? In ebook. Li trovo più interessanti a livello visivo, meno stancante. In questo momento siamo davanti ad una scuola elementare che ha anche una scuola media e che da quest'anno propone un corso con i tablet. Pensi di iscrivere le tue figlie a questo corso? Sì, io, come già è previsto in Svizzera, quindi già ho potuto notare che sono un po' più avanti, diciamo, prevedo questa sezione sperimentale che ha il progetto BEI, che riguarda appunto tablet, tutto attraverso lo studio orale del tablet. Leggi più ebook o libri cartacei? Libri cartacei. Perché? Perché mi piace sfogliare le pagine del libro e mi piace l'odore della carta. E i tuoi figli? Libri cartacei. Non lo so, perché non mi hanno mai chiesto altro. Simone, tu leggi solo libri di carta o li leggi anche sul computer? Solo libri di carta. E se io te li regalassi su computer o su un tablet, li leggeresti? Sì. E tu leggi libri di carta? Sì. E sui tablet? Sì. C'è una differenza? No. Quale ti piace di più? Su tablet. Qual è il libro che ti è piaciuto di più? Capitan Mutanda contro gli zombie babbei. No, scusate, Capitan Mutanda è troppo. Ma dove l'hai trovato? Questo è un genio, devi portare in redazione. Capitan Mutanda. Ma guardate che stava. Guarda, era il modo in cui i bambini parlano del presidente del consiglio. Allora, no, voglio sapere. Questa scuola dove. I babbei a questo punto chi sono? Come chi sono? Sono il PD, scusate. Ma che domanda mi fa? Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. minuti della belva. Eccoci qui, tornati in diretta alle 11:06 minuti dagli studi Radio 24 in Milano, la compagnia dei conti della belva. Ciao Roberto, Canale Maffè. Francesca. Eccoci, naturalmente anche Oscar che vi saluta. Allora, prima di passare al nuovo blocco di questioni, quello delle difficoltà economiche europee, dei provvedimenti della BCE su cui il mercato spera da una parte e dall'altro critica la BCE perché ha appena appreso che vuole un ulteriore rafforzamento dei requisiti di patrimonio, tenteremo di spiegarvi anche che cosa sono delle banche, dall'altro il voto greco che si avvicina, ce ne siamo occupati una settimana fa, con i rischi di dicono alcuni uscita dalla Grecia dell'euro, dicono i tedeschi in maniera informale, vabbè che escano, non è più un problema. Invece Tsipras dice no, noi non vogliamo affatto uscire, però si ridiscute l'entità del debito detenuto dagli paesi dell'euroarea. Sulla base di tutto questo avremo una riflessione con ex membro del board della BCE italiana, Lorenzo Binismaghi. Intanto però un minuto ancora con un ascoltatore che ci chiama sul tema per cui vi abbiamo chiesto di intervenire e continuate a chiamarci all'800240024 sull'affaire francese. Tra l'altro noi qui in studio siamo tutti scandalizzati perché tra i tanti buchi delle forze di sicurezza francesi, l'idea che la fidanzata, la Boumediene, la fidanzata di Koulibaly sia riuscita a scappare ieri dal supermercato Cocher e ancora non l'abbiamo acchiappata, di sicuro dice che insomma dei buchi importanti ci sono. Però Federico D'Ancona, come la pensa sulla satira? Federico. Ciao. Ciao. Facevo una riflessione sul fatto che la satira ha sempre offeso qualcuno. Sì. Sin dalla sua nascita, pensavo a Quintiliano, ma anche lo stesso Dante Alighieri aveva messo Papa Bonifacio VIII all'inferno che era ancora vivo. Quindi sicuramente è una contraddizione rispettare le sensibilità degli altri quando si esprime la propria opinione. Federico, benvenuto nella minoranza alla quale apparteniamo anche noi. Il più dei messaggi che continuano ad arrivare sono messaggi che invece aderiscono alla tesi no, su Derica non si può. E su Derica non si può significa naturalmente per l'Islam il profeta Maometto. Sì, dobbiamo collocare storicamente questa tua battuta, sì, che cioè esatto, dimostra il fatto che come minimo non hai più 20 anni. Cioè, no, intanto la Derica penso sia stata stiamo parlando di un marchio storico del passato dell'alimentare italiano che faceva in carosello, usava Gatto Silvestro che inseguiva il Catarino che si andava alla fine. Ma adesso io Lorenzo non me lo Binismaghi ricordo, sono più giovane. Vabbè. Io sono molto più giovane e non mi ricordo. Comunque, vabbè. Scusa, volevo anche dire una cosa fondamentale, cioè niente giustifica comunque la violenza. Una esatto. Cosa è incazzarsi sulla satira nei esatto. confronti di Maometto, ma anche del nostro Dio, di chiunque, anche di appunto religioni non nostre. Ma anche le nostre, una cosa è uccidere per vendicare il profeta Maometto, perché questo è stato il delirio dei killer parigini, è stato noi siamo i difensori del profeta, possiamo uccidere in nome di Maometto per vendicarlo, ed è questo il nostro punto. Il fatto che poi si possa o non possa fare satira è un discorso che noi ci possiamo fare e chiacchierare quanto vogliamo, ma rimane il fatto che non si può imbracciare un Kalashnikov per vendicare chi ha fatto satira. Questo esatto, però lo diciamo sempre noi in base alla nostra cultura e all'evoluzione che ha avuto, perché altrimenti se adottiamo un relativismo per cui la libertà di espressione deve fermarsi di fronte all'idea che qualcuno si offende, non possiamo non sapere che c'è una parte di Islam che rivendica in coerenza ad alcune sure del Corano quello che tu consideri una cosa inaccettabile. Certo, per loro è un codice d'onore. No, però non è un codice d'onore, per loro sono alcuni, sottolineo per evitare l'equivoco a casa, alcune sure del profeta che impongono di trattare in un certo modo gli infedeli irrispettosi. Quindi, cara mia, attenzione, perché non è vero che non c'entra con la satira. Se noi dobbiamo fermarci a credere che tutto è relativo, tutte le culture sono sullo stesso piano, allora nell'Islam c'è anche chi dice attenzione, io ho il diritto di venirti a sparare a casa tua. Ho detto c'è anche chi, una minoranza, però non possiamo far finta di non sapere che c'è. Adesso, alla prossima telefonata dei nostri ascoltatori, aggiornamento sulla faccenda francese, ma intanto grazie a Lorenzo Binismaghi di essere con noi per parlare di Europa, mercati finanziari. Buongiorno. Buongiorno. non posso dire la mia sul come no. Possiamo parlare di satira dell'euro se vuoi. Dopo parliamo anche di satira. Però secondo me non c'è una cosa non avete detto, che la libertà di espressione e i limiti della satira sono oggetto di una legislazione. Come no? Cioè i francesi, quelli che sopravvissuti di Charlie Hebdo hanno detto: noi siamo sempre rimasti all'interno della legge francese, fino all'ultimo millimetro, però siamo sempre rimasti all'interno. Dunque l'attacco, così viene interpretato in Francia, l'attacco a Charlie Hebdo è anche un attacco alla legislazione francese che porta la satira fino a un certo limite. No, ma è che è un limite comunque, mi perdoni Biesmag, superiore rispetto al nostro in tradizione, perché lì c'è una perché insomma l'idea della laicità lì è costitutiva dell'idea repubblicana francese, a differenza che in Italia. Esattamente, a differenza che in Italia. Tanto è vero che per esempio i politici francesi, Francesca, querelano molto meno frequentemente dei nostri, perché altrimenti dovrebbero querelare sempre, perché se uno avesse il canale di Chanel e Charlie Hebdo venivano trattati tutti, destra e sinistra, in una maniera che qua tutti avrebbero querelato. In Francia l'attacco viene visto non solo attacco a Charlie Hebdo, ma un attacco alla legge francese, allo Stato francese. Vabbè, questo per no, no, no, ma è importante. Allora, Lorenzo Benismaghi, ma in realtà i mercati sono divisi in due oramai, perché da una parte confidano che Mario Draghi oramai sia pure a maggioranza, eccetera, eccetera, compra a man bassa un po' di centinaia di miliardi di titoli dei debiti pubblici degli euromembro. Vedremo con che criterio, se in rappresentanza più o meno, ma insomma si parte con questa cosa, perché i dati della deflazione certificata da Eurostat l'altro ieri, ohimè, dicono che il 2% di inflazione è come obiettivo, non è lontano, non esiste più praticamente, anzi diciamo un mezzo fallimento proprio conclamato della politica monetaria. Inadempienza tecnicamente, vabbè, okay. Perché sai, c'è dall'altra parte però tutti gli intermediari bancari nel nostro paese, si vede anche qui, sono 24 ore, sposa come sempre la posizione delle banche dicendo: oh, la BCE sta imponendo un rafforzamento patrimoniale delle banche, che è una cosa che assassina i crediti, ma insomma ce l'hanno con l'Italia, e così via e così via. Io non aderisco a questa seconda tesi, però lo schema è divisi tra una grande fiducia e una enorme incertezza. Come la pensa Lorenzo Benismaghi? Cosa dobbiamo attenderci davvero, in che limiti? Ma innanzitutto non credo assolutamente che ci sia incoerenza, perché il problema, secondo me molto sottostimato in questi anni, dell'economia europea è quella di aver poggiato sul sistema bancario e finanziario debole. Ricordiamoci che rispetto agli Stati Uniti l'Europa è stata molto più lenta a riconoscere i problemi del sistema bancario, tutto andava bene, già. Se vi ricordate, no? Mentre negli Stati Uniti già dal 2008-2009 sono intervenuti in modo molto pesante, hanno ricapitalizzato le banche anche con soldi pubblici, anche con grande scandalo tra l'altro per il sistema capitalistico americano, poi dopo hanno stabilizzato le banche, hanno restituito i soldi ai contribuenti, che ci hanno anche fatto qualche profitto. Mentre qua di discutere sui soldi pubblici per le banche non si è mai fatto, questa è una cosa da dire. Qui quel tabù non è stato infranto. Ho capito, non è stato infranto dicendo che avevamo il sistema bancario più solido del mondo. Ma era una menzogna. E però non vogliamo consolidare le banche, centinaia di banchette, continuiamo a difendere. Voglio dire, adesso Benismaghi non lo coinvolgo su questo. MPS, quando bisognava intervenire radicalmente, chissà quanto tempo fa, perché non ha attivi patrimoniali necessari a sostenere la possibilità di una credibile ripresa. Tant'è che deve ricapitalizzare ogni volta dopo X mesi, li ha riperso ciò che ha ricapitalizzato. È bastato citare la cosa MPS. Lorenzo, ti abbiamo perso? Sì, no, è bastato citare persi. La cosa MPS per fare cadere la linea. Però detto questo, noi abbiamo raccontato, i media italiani completamente allineati al sistema bancario, continuato a ripetere in tutti questi anni: siamo il sistema bancario più solido del mondo, e chiunque mette in discussione questo è un nemico giurato dell'Italia. Mario, non è così? Il sistema bancario italiano ha avuto degli enormi problemi di qualità degli affidamenti, che spesso venivano dati agli amici e agli amici degli amici. Ora sta pagando, è giunto diciamo all'appuntamento col proprio destino, nel senso che paga anche una congiuntura che vede la più completa assenza di domanda, per cui un vero rischio di desertificazione. Per cui dalla sintesi di colpe storiche e un presente praticamente drammatico, il sistema bancario italiano è giunto all'appuntamento col destino, che sarà una enorme ristrutturazione del settore. Ecco, questa enorme ristrutturazione del settore, nel frattempo che cerchiamo di ristabilire il contatto con Lorenzo Benismaghi, Carlo Alberto, è quello che però terrorizza le banche italiane in questi giorni. Cerchiamo di spiegare un secondo rapidamente, dopo l'interruzione sul traffico, che adesso chiamo, in cosa consiste davvero questa lettera che la BCE ha mandato alle 15 banche che sorveglia in Italia, cioè le maggiori, in cui dice: no, cari signori, voi dovete aumentare ulteriormente i vostri requisiti patrimoniali in maniera differenziata, perché noi vi ci permettiamo di dire che alcuni devono farlo rispetto a questa giunta ancora più degli altri. Tra 60 secondi spieghiamo al pubblico questo. Strano, non c'è neanche traffico oggi, sono tutti in vacanza, e allora Carlo Alberto lo spiega subito. Vedi, i requisiti patrimoniali sono la garanzia che la banca dà ai suoi creditori di far fronte agli impegni che prende. Posto che la qualità dei nostri impieghi è stata negativa, vediamo che i dati di Banca d'Italia dicono che un euro su quattro di quelli investiti nell'immobiliare in questo momento in sofferenza, vuol dire che abbiamo prestato 4 euro e uno non ci viene restituito per far casa, e questo è importante per far capire quanto è stata spostata sull'immobiliare e quanto è cresciuto il credito sull'immobiliare in questo paese in maniera sproporzionata dal fabbisogno del paese. Oggi cosa sta dicendo la BCE? E secondo me, scusate, per una volta io la difendo, sapete che sono molto critico, la dice: no, care banche, questa volta dovete innalzare i vostri requisiti patrimoniali, perché quel modello di disordine degli impieghi e questo modello di mancanza di garanzia rispetto ai vostri azionisti non va bene. Teniamo presente che da quest'anno entra assolutamente in vigore il principio del bail-in, cioè che il salvataggio di una banca in difficoltà non viene più scaricato sul fondo pubblico, ma lo pagano gli azionisti, gli obbligazionisti e, se necessario, anche i correntisti. Quindi il livello di garanzia deve crescere, perché sennò perdiamo fiducia delle banche. E le banche che non ce la fanno a raccogliere capitale tale da migliorare le garanzie perderanno la fiducia dei loro clienti. E dal mio punto di vista questo sì darà luogo a una molto desiderata e molto funzionale consolidamento, cioè una semplificazione e diminuzione del numero degli attori. Ne abbiamo più di 600 di banche, quante ce ne servono in questo paese? E basta con questa difesa delle banchette come se fossero... Scusate, però c'è da dire una cosa, sì. Qui si tende sempre a ignorare una cosa chiamata transizione. Ne stavamo parlando costi, prima, che ha dei costi che possono essere potenzialmente devastanti, in termini di credit crunch aggiuntivo, in termini di devastazione di tutto quello che porta con sé. Per cui, se in astratto sto attendendo da una vita la ristrutturazione del settore bancario italiano secondo canoni di maggiore meritocrazia e di maggiore razionalità nell'erogazione degli impieghi, dall'altro non posso negarmi e nascondermi che questa cosa chiamata transizione, no, questo provvedimento della BCE rischia di essere sale sulle ferite, rischia di avere degli effetti ulteriormente dirompenti. Vero, però sono 5 anni che questa lezione qualcuno doveva capire. Mario, hai ragione, sì, transizione. Però scusa Carlo Alberto, però se qui facciamo il discorso uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi, giusto per restare all'atere del tema della puntata, vorrei far notare che questa frase è di matrice cristiana, diciamo dei tempi che furono, giusto per fare un discorso contro complessivo sulle religioni, esatto. Allora, se dobbiamo fare il discorso uccideteli tutti, uccidetele tutte le banche, Dio riconoscerà le sue, dobbiamo anche essere consapevoli di quello a cui andiamo incontro. Con Lorenzo Benismaghi, ex membro del board della BCE, e è caduta la linea mentre si stava inoltrando sul terreno in cui identificava nel ritardo del rafforzamento patrimoniale e nel consolidamento, cioè nella semplificazione attraverso aggregazioni e fusioni del troppo alto numero di banche europee, una differenza di fondo tra il nostro sistema europeo e quello degli Stati Uniti, che invece ha reagito con tempestività anche con strumenti pubblici, ma insomma la capì fin dall'inizio la lezione per quello che riguardava le banche. Qui invece le abbiamo considerate ancora per anni e anni, ciascuno nel suo recinto nazionale, con criteri diversi, ognuno dicendo che c'è il sistema bancario più forte del mondo, gli italiani in testa a questo. Caduta la linea, noi abbiamo fatto un po' di considerazioni sul fatto che la BCE chiede l'aumento dei requisiti patrimoniali alle 15 banche che sorveglia in Italia oggi, le maggiori, lo fa in maniera discrezionalmente maggiore anche per alcune che per altre. Giustamente Mario dice sì, questo aggiunge sale sulle ferite e è un costo di transizione ulteriore molto forte. E dall'altra parte io e Carlo Alberto diciamo sì, però questi banchieri italiani e il sistema anche italiano, il politico, il regolatore delle fondazioni e così via, in tutti questi anni ha sempre fatto finta di non capirla questa lezione. Che ne pensa Lorenzo Benismaghi? No, innanzitutto la richiesta è stata dovuta al fatto che alcuni di questi attività, assets che vanno a costituire capitale, sono capitale dubbio. Il problema della transizione che stavo ascoltando è esattamente l'opposto di come si diceva prima, perché più più rapidamente si risana il sistema bancario, si creano le aggregazioni, più si mette il sistema bancario in condizioni di prestare. Questa emorragia, questo credit crunch che sta secondo me affossando l'Italia deriva dal fatto che il sistema è debole. Lo si fosse rapidamente aggiustato, che non vuol dire sta lacrime e sangue, vuol dire mettere i banchieri in condizioni di dire ora posso prestare perché ho abbastanza capitale, se io non ho capitale non presto. Posso fare una domanda, Lorenzo Benismaghi? Non l'avrei potuta fare finché stava a Francoforte, ma da 3 anni fa, io dico da 3 anni e mezzo oramai quasi, forse anche la politica italiana non poteva ragionare sul fatto che a fronte dell'inevitabile esplodere del monte di sofferenza in cagli delle banche, ricordiamo è arrivato a 180 miliardi 180 miliardi appunto, cioè stiamo parlando di un 12-13% del PIL, perché non utilizzare o la richiesta di aiuti europei? Io andai da Monti a chiederlo, Monti mi disse: Presidente del Consiglio, no, io questa cosa non la faccio perché non espongo l'Italia a dire che chiede aiuti come la via spagnola. E io gli risposi: Presidente, professore, abbiamo un rapporto, continuo a avercelo io con ma perché non usa gli attivi, non i liquidi di CDP, gli attivi di CDP a garanzia di un intervento di sistema concordato con le autorità europee ma senza l'accesso e la richiesta dei fondi europei per coprire con, ripeto, attivi a garanzia una soluzione di sistema per le sofferenze bancarie italiane? Non sarebbe stato meglio piuttosto che utilizzare la liquidità di CDP per fare l'Iribis? Chiedo all'ex banchiere centrale. Guardi, il problema, ci vuole leadership politica per fare un'operazione del genere, perché bene o male ci sono soldi dei contribuenti, sono i contribuenti che devono mettersi a garanzia. Altri paesi l'hanno fatto perché hanno avuto la leadership politica. Noi, cioè, oggettivamente Monti non era un leader politico, chi è venuto dopo non era un leader politico. Il governatore della Banca d'Italia un anno fa ha detto: qui ci vuole una bad bank, per la bad bank si fa con i fondi pubblici a garanzia. Ci vuole un leader politico che dica ai cittadini italiani: guardate, io utilizzo i vostri contributi, ma questo va a garanzia del sistema e alla fine ne usciremo con più soldi di prima, cioè non sarà danno, però è una garanzia che è fondamentale per spalmare, diciamo, le perdite su un periodo lungo. E però ci vuole la forza politica di confrontare i cittadini che in linea di principio sono contrari, perché chi oggi va a chiedere ai cittadini: mettiamo soldi pubblici per salvare i cattivi banchieri, è chiaro che non è che si guadagna il consenso. No, ma infatti se per salvare i cattivi banchieri nemmeno io lo direi, però il problema è diamo un sistema che consente a quel punto di liberare attivi a garanzia di impieghi di credito, perché altrimenti non ci saranno per anni, perché le banche nel frattempo dicono: io i costi fissi rapidamente in Italia non li posso abbattere perché non posso licenziare la gente e dismettere le agenzie. In questi giorni succede un paradosso di cui parlavamo prima, caro Alberto, sì, lo spieghi? Sì, che lo spread dell'intermediazione bancaria è addirittura salito sopra i costi della raccolta, cioè costa di più sostanzialmente pagare la banca che pagare il fornitore del capitale in questo paese, un po' perché sono diminuiti i tassi di interesse sicuramente, ma anche perché rimangono inefficienti, esatto, le strutture organizzative dell'intermediazione finanziaria. Quindi sostanzialmente chi paga il capitale, quindi chi chiede a prestito, oggi sta pagando più l'intermediazione della banca di quanto paghi la materia prima, cioè il capitale stesso. È un paradosso che non può leggere, ed è anche una delle cause per cui questo consolidamento bancario, che è organizzativo, non solo patrimoniale, certo, non è solo una questione di quartiere, ma cioè, no, è un modello di banca, esattamente, che deve cambiare, un modello di banca distributivo, di amministrativo, di compliance, di rispetto delle regole bancarie europee, che sono complicate, nuove e completamente diverse da prima. Caro Benismaghi, anche questo dobbiamo dirlo, la BCE sta imponendo una marcia forzata verso la transizione all'unione bancaria. Non so quante banche italiane sono veramente preparate a essere banche europee. Ma non è il problema della Banca Centrale Europea. In Italia ci sono troppe banche, lo sappiamo, e gran parte di queste banche non sono a posto, e l'unica cosa che può fare la BCE, lei cosa farebbe? Va lì e dice: io voglio più capitale, più sicuro. Se non ce l'avete nel giro di poco tempo, vi dovete aggregare, ristrutturare, fare rapidamente, se no l'Italia ne soffre, nel bene dell'Italia che questa operazione finalmente viene fatta. La moral suasion di faziana memoria si è oggi trasformata in un innalzamento dei requisiti di capitale come modalità di forzatura di un consolidamento. Io ripeto, c'è un problema. Mario. C'è un problema. In un mondo ideale, diciamo, da economisti sarebbe sicuramente come dice il dottor Benismaghi. Poi in realtà la realtà è ben diversa, e sicuramente lui lo sa meglio di noi, diciamo, mediamente, quali sono le resistenze e gli attriti del sistema all'evoluzione. Poi ripeto, si può anche fare un'evoluzione. Questo forzerà l'Italia anche a cambiare, per esempio, la legge sulla governance dei popolari, forzerà tutta una serie di cose. Speriamo. Non sono state fatte perché c'era una resistenza corporativa al sistema molto forte, ma invece, l'unico modo invece... per scardinare questa cosa qui è quello che fanno in tutti i paesi del mondo. Si va lì e dice: non avete abbastanza capitale, tiratelo fuori, se no vi dovete ristrutturare, aggregare, tagliare costi e via dicendo, perché così l'economia italiana non può andare con un sistema bancario inefficiente. Allora, e invece che abbiamo, diciamo così, prospettiva e ordine di emergenza rispetto alle elezioni greche del 25 e rispetto alle decisioni che sono attese dalla BCE prima, e in cui i mercati invece in quel caso confidano tantissimo, cioè si parla di almeno 500 miliardi subito di acquisti di titoli sovrani degli euromembri da parte della Banca Centrale Europea. Che dice Lorenzo Binisbaghi? Sarà la bacchetta magica? Ma diciamo, non è che sarà la bacchetta magica, sicuramente siamo in una situazione abbastanza grave in termini di deflazione, inflazione negativa, e questo per un paese come l'Italia, per esempio, che deve ridurre il disavanzo pubblico, deve ridurre l'indebitamento anche al settore privato, un denominatore che non cresce perché c'è inflazione a zero è un grossissimo problema. Dunque la BCE deve fare di tutto per riportare l'inflazione e le aspettative inflazionistiche che sono scese in questi mesi al suo obiettivo del 2%, e lo deve fare con tutti gli strumenti che ha provato tutto, non ha funzionato finora, è rimasta la... Ma ha davvero provato tutto, Lorenzo? Ha veramente provato? Lei, ma se non ricordo male, è stato l'unico ad approvare l'ultimo tasso di interessi in crescita nel 2011, c'era ancora lei, dico bene, l'ultima volta che no, la dice. No, ma questo, nel 2011 l'inflazione era al 3%, certo. Oggi siamo all'inflazione a zero, cioè oggi... non bisogna dimenticare il contesto in cui siamo. Fino al 2012 la BCE aveva dei problemi perché oggettivamente con un'inflazione superiore al 2% c'è un limite al tipo di operazione di espansione che può fare. Ora l'inflazione è chiaramente al di sotto, cioè c'è chiaramente l'obiettivo non è raggiunto, dunque deve fare di tutto, se no perde. Ha fatto secondo lei di tutto? Beh, ora lo deve fare, secondo me è chiaro che deve creare il consenso, no, all'interno del... Anche se si vota a maggioranza, non c'è bisogno di aspettare, noi abbiamo votato a maggioranza tante volte, sì, certo. Però voto di consenso anche negli Stati Uniti è difficile, uno split 50. Da quest'anno finalmente vengono pubblicati i verbali, mi sembra già un pezzo di trasparenza importante. Saranno pubblicati, non è così rilevante. Ma no, anche perché noi sapremo i nomi, i voti e le cose, che me ne faccio io? E guarda che più dei verbali è sapere chi dice cosa e chi vota come, perché è di lì che lo sappiamo già, caro Oscar. Il prurito dei giornalisti che vogliono sapere tutto, l'importante è la No, il meccanismo di efficienza dei segnali ai mercati. Esatto. No. Però alla fine l'efficienza viene da cosa la BCE deve fare. Certo. Quando si vota a maggioranza, si vota e basta. È chiaro che Draghi sta cercando di creare il massimo consenso, ha provato di tutto, questi ABS che non hanno funzionato, il TLTRO, poi alla fine rimane il mercato più liquido, più ampio che c'è in Europa, è il titolo di Stato. Purtroppo sì. Dunque deve comprare titoli di Stato, in che misura li comprerà, con dove sarà il rischio, questa è la grande discussione. E dove invece finanziare le banche? No, chiedo, se invece quello che non è stato fatto in Europa, rifacciamo, ma è stato fatto in America? No, dunque non ho capito la domanda. E invece rifinanziare le banche con soldi pubblici? No, ma il problema è, se posso spiegare un attimo, fino ad ora la BCE operava in questo modo, cioè diceva alle banche: io vi do il finanziamento che volete a tassi bassissimi. Il problema è che le banche dicevano: ma io non ho bisogno di finanziamento perché i miei clienti non me li chiedono. Domanda. Invece il quantitative easing è diverso, nel senso che va dalle banche e gli dice: io ti compro i titoli di Stato che tu hai nel tuo portafoglio a un buon prezzo, dunque tu me li vendi, fai un guadagno, però poi la banca si ritrova nel bilancio tanta liquidità di cui non sa bene cosa fare, anzi è penalizzata, cioè la ridepositi alla BCE e dunque è obbligata a comprare qualcosa e dunque questo la spinge a comprare titoli più rischiosi, a prestare, cioè è un'azione molto più dirompente nei confronti del settore bancario, cioè spinge il settore bancario a utilizzare questa liquidità nel settore reale. Questo dovrebbe essere più efficiente come... Quindi più efficiente del rifinanziamento. Vedremo. Ragazzi, dobbiamo prendere un impegno, meno tecnici, perché la parte sulle banche i nostri ascoltatori ci hanno giustamente bastonato. Giustamente noi dobbiamo chiedere scusa, perché noi chiediamo scusa, cosa che lo Stato ladro non fa mai! A sabato prossimo! Fratelli d'Italia, l'Italia l'è messa dai tempi.